Salirà una voce al cielo e si invocherà il tuo nome e la tua gloria. Tu sarai la mia forza e il mio rifugio, mi amerai e mi difenderai. Gesù, con te mi porterai, la morte io non vedrò mai. Il mio cuore si rallegra perché confido in te. Canteremo al mondo intero, tu sei il nostro Signore. La tua bontà riconduce alla vera vita, potente sei, nessuno temerò. Gesù, con te mi porterai, la morte io non vedrò mai, e il mio cuore si rallegra perché confido.